Registrazione a cura di Scatola Nera. Il contenitore multimediale. L'esperienza, finché non si riesce a comunicarla, a trasformarla in un discorso, magari scritto o orale, rimane come incompiuta. E proprio il fatto di poter parlare di un'esperienza che porta l'esperienza a compimento. E sono sicuro che stasera con voi, col vostro aiuto, riuscirò un po' a portare a compimento questa esperienza. Evidentemente, e anche l'esperienza che ho fatto con un uomo che diceva di no. E come sapete, dire di no, secondo il precetto camusiano, è proprio l'inizio della rivolta. Comunque, siamo dei lettori di Sciascia, dei lettori presenti, passati, futuri. È normale anche che ci scambiamo le nostre idee su Sciascia. Io ho avuto la fortuna, qualcuno dirà il privilegio, almeno così dicevano i miei colleghi, il privilegio di curare l'edizione delle opere. Un'edizione che è stata promossa e portata avanti dall'editore Bompiani di Milano. E questa edizione l'ho fatta con Sciascia. Dal 1987 al 1991. È un po' il racconto di questo lavoro, sarà il mio punto di partenza, il punto di partenza della nostra conversazione di stasera. Si trattava in sostanza di inserire l'opera di Sciascia in una collana già abbastanza prestigiosa, che era quella dei classici Bompiani. Ho portato qui due volumi, corrispondono anche a due edizioni diverse, due volumi e siamo riusciti, abbiamo fatto tre volumi. È un'edizione di Sciascia in tre volumi. Sciascia già lo conoscevo da parecchi anni, e cioè dal 1968. Fa sempre un certo effetto quando si dice «Ah, ma io lo conoscevo dal 68». Era prima di quello che si chiama il 68. Era in maggio, ma i primissimi giorni. Ecco, comunque l'ho incontrato nel 68 e l'ho incontrato a Ispra. Cioè, cittadina che non è molto lontana qua, l'ho incontrato a Ispra perché era stato invitato da a Ispra c'è una scuola internazionale e Sciascia era stato invitato dal docente d'italiano che invitava sistematicamente ogni mese uno scrittore italiano, uno scrittore importante. E lì, i primi di maggio, aveva invitato Sciascia. E mi aveva anche invitato. Allora vivevo a Milano, ero lettore di francese alla Statale, e ero stato invitato perché con un mio amico, che viveva a Firenze, che insegnava a Firenze, avevamo curato una pagina, anzi una pagina doppia, del supplemento letterario di Le Monde, quel prestigioso giornale parigino, come si diceva, una pagina che era dedicata alla letteratura italiana contemporanea. E curando quella pagina avevamo spiegato ai francesi che c'era un... Non era un grandissimo scrittore come è diventato, però uno che sembrava che dovesse diventare un grande scrittore, e che era Leonardo Sciascia. E quindi subito gli italiani si sono impressionati e hanno detto cerchiamo di saperne di più, e quindi sono stato invitato a partecipare a questo mini seminario, ed è così che ho incontrato per la prima volta Leonardo Sciascia. Potrei anche dire che ricordo certe cose, il fatto che lui avesse insistito perché la gente discutesse del Consiglio d'Egitto, che era una specie di romanzo storico, piuttosto che su dei temi, diciamo, più immediati, più brucianti, come la mafia, per esempio. Però per lui sicuramente parlare del Consiglio d'Egitto, che è una storia ambientata alla fine del Settecento, in Sicilia, è una Sicilia che guarda verso Parigi. Per lui sicuramente era anche un argomento che aveva una sua attualità, una profonda attualità, anche nel 68. E quindi ricordo questo, ricordo altre cose, durante la cena, non so, sì, posso raccontarvi questo episodio durante la cena. C'era anche lì un funzionario della prefettura, come normale in quelle cose, che doveva essere una persona colta o comunque recitava la parte, e ha detto che aveva apprezzato in modo particolare la prima parte del romanzo. E anche Leonardo ha risposto, anche con quella faccia da siciliano che aveva allora, ha detto... Già l'imbroglio, ed è lì che c'è stato, mi pare di ricordare, un gelo nella conversazione. Ma comunque, dopo ho continuato a vederlo, o lui ha continuato a vedere me, e ci vedevamo a Milano praticamente, sì, anzi, ogni volta che veniva a Milano veniva a trovarci. Dico a trovarci perché c'erano anche le mie figlie, come è stato ricordato un momento fa, e portava dei fantastici dolci siciliani, dei fantastici dolci siciliani. Questo anche per dire che era una persona molto semplice. I rapporti con lui erano dei rapporti semplici, anche quando andavamo a trovarlo in Sicilia, ecco, ci faceva anche sparare a carabina, delle cose di questo tipo qua. Poi, se voglio sublimare il discorso, posso anche dire che io, essendo francese, mi sembrava un uomo che nei comportamenti con gli altri, almeno con me, sembra che altri non la pensassero esattamente come me, ma che i suoi rapporti fossero ispirati a quell'idea di liberté, égalité, fraternité. Voglio dire che con lui uno si sentiva libero, libero di raccontare le sue cose, libero di parlare, di dare pareri, ecco. E anche libero di scrivere su di lui. Non interveniva. Parlerò un po' di come abbiamo fatto questa edizione. Ma lui non interveniva, non diceva, ah, ma sai, dovresti dire, ma qua, ma là, eccetera. No. Non era un uomo così. E poi aggiungerei egalité, l'uguaglianza. Non faceva mai pesare il fatto di essere, perché Dio era anche un grande scrittore. faceva il pesare. Aggiungerei anche fraternité. Aveva veramente un modo fraterno, ma non di tipo fraterno protettivo di trattare con gli altri. Ecco. E questo secondo me definisce anche il personaggio. Ovviamente aveva anche una simpatia, secondo me, esagerata per i francesi. Cioè, per esempio, era spietato nei confronti dei politici italiani. Spietato. E a me, visto che io sono francese, mi sembrava che fosse molto indulgente nei confronti dei politici francesi. E poi avevo una certa idea così della Francia. Per lui la Francia era la Francia di Voltaire, la Francia dei suoi grandi intellettuali. E quando incontrava dei francesi oggi aveva un po' la tendenza a credere che noi fossimo la continuazione di quei signori, ecco. Ma su questo sarei un po' incerto, ecco. Un'altra cosa che bisogna dire, sia. Non so, mi ha fatto conoscere diverse persone, ecco. Così ho conosciuto Enzo Consolo, anche lui un grande scrittore. Ho conosciuto Ferdinando Sciana e siamo diventati anche grandi amici. Quindi. Ho anche conosciuto, ho continuato a conoscere, a incontrarlo, a vederlo, a vedere i suoi amici, anche quando sono tornato in Francia. Sono tornato in Francia, credo, nel 75 e nel 74 avevo pubblicato un libro per l'editore Mursia di Milano, intitolato Invito, in una collezione, Invito alla lettura di Chasch. Pubblicato varie edizioni di questo libro fino al 94 o 96, credo. Adesso, ma io continuavo a vederlo, non era che lo perdessi di vista o che lui mi dimenticasse. E poi, diciamo, doveva essere verso l'86, sì, 86. Mi ha detto: ah, ma sai, Bompiani, Repubblica, le mie cose, perché diceva sempre le mie cose. Ecco. Ne farà facciamo così tre volumi, eccetera. Non so se dice se comunque, ecco, raggruppando i libri che già erano usciti presso altri editori e in modo particolare presso l'Einaudi Editori. E mi disse: ah, beh, sì. Oh, ma ti chiederanno di fare un testo, eccetera. Va bene. E così abbiamo cominciato a fare questa edizione. E vi ho portato qua, perché possiate guardare, vi ho portato qua due fotografie che rappresentano, insomma, il lavoro che facevamo quando ci incontravamo lì in un albergo milanese, per discutere e fare questa edizione. Vedete sulla foto lui ovviamente fuma, ecco. Io ho la barba perché ero più giovane, ecco. E quindi abbiamo fatto insieme questa edizione. Praticamente oggi ancora è l'edizione completa delle opere di Sciascia, anche se sono usciti altri due volumi presso la Delfi, che sono dove sono raccolti dei testi che sono stati recuperati qua e là. Ed è ciò che Sciascia non voleva. Ciò che non voleva allora. E io ero perfettamente d'accordo con lui. Adesso le cose sono cambiate, si può vedere il problema in un'altra prospettiva. Però lui voleva che i libri della Bompiani raccogliessero le sue opere che già erano state pubblicate in volume. Cioè, lì abbiamo a che fare con tre volumi, tre libri, ma che sono una raccolta dei libri di Sciascia, non di testi sparsi qua e là, sicuramente degni di interesse, però non era la cosa che allora comunque a lui interessasse. E effettivamente i tre volumi sono composti dai suoi libri in ordine cronologico. Abbiamo seguito l'ordine cronologico. Sì, ogni tanto per motivi editoriali abbiamo spostato un libro, ma questo non è molto importante. Primo, secondo volume e la prima parte del terzo volume. Però un problema c'è stato. Secondo me, la penso così ancora oggi, abbastanza significativo. A proposito delle parrocchie di Regalpetra. Le parrocchie di Regalpetra è un libro che esce nel 56, nel 67 Sciascia ripubblicherà le parrocchie di Regalpetra, sempre presso lo stesso editore che era la terza, aggiungerà un saggio che è Morte dell'Inquisitore, un saggio storico che è Morte dell'Inquisitore, ma per lui le parrocchie di Regalpetra è il libro che doveva stare proprio all'origine della sua opera. Ho parlato della prefazione del 67 perché nella prefazione del 67 dice, del 67, dice, qualcuno l'ha detto, lo dico anch'io, che tutti i temi che ho svolto poi in altri libri già ci sono nelle parrocchie di Regalpetra. Quindi lui come scrittore si è sempre ritenuto l'uomo che aveva inizio con le favole e con le parrocchie di Regalpetra. Evidentemente io che ero un mezzo filologo non ero d'accordo e dicevo, ma come hai scritto altre cose prima? E delle cose interessanti come le favole della dittatura, che sono del 50, come la Sicilia e il suo cuore, che sono delle poesie del 52, e anche un saggio su Pirandello, che è del 53. E io avrei voluto pubblicare questi testi. E invece lui, no, ostinato, cocciuto, niente da fare. Il primo volume deve avere inizio con Ecco, però quelli lì erano dei libri. Ci sono stati magari anche alcuni problemi per un saggio su Montaigne che lui non so per quale motivo bisognerebbe discutere. Sul momento non voleva pubblicare. E poi non voleva che si pubblicasse, che si pubblicassero i vari saggi, alcuni anche molto importanti, su Pirandello, perché diceva: ho scritto l'alfabeto pirandelliano che è pubblicato 3-4 anni prima. E diceva: ah, ma lì ho riassunto il mio pensiero su Pirandello. Ecco, se no, le cose sono andate lisce. Ecco. Dico questa cocciutaggine, dicevo, a proposito delle parrocchie di Regalpetra, mi sembra una cosa significativa, di cui forse riparleremo. C'è un'altra cosa significativa ed è il fatto che lui muore tra il secondo e il terzo volume. Muore nell'89 e lo rivedo ancora quando disse a me e all'editore, che era il dottore Andreose, ci disse: al terzo volume ci penserete voi. E ce lo disse, ma io direi senza nessuna ironia, senza nessun atteggiamento invece di tipo pietoso. No, così freddo. Al terzo volume ci penserete voi. E infatti abbiamo dovuto pensare al terzo volume, perché il secondo finiva con una raccolta di saggi, Cruciverba, e arrivava al 1983. Fare il terzo volume. Il terzo volume è composto di due parti. C'è una prima parte che continua come i primi due volumi. E poi una seconda parte che è stata da parte nostra un recupero di testi di cui Sciascia in un certo senso non voleva sentir parlare. Abbiamo recuperato i suoi primi testi e tutti i testi praticamente su Pirandello, comunque testi che erano diventati libri e volumi, non testi sparsi. Ci sono poi nel terzo volume dei testi che Sciascia ha composto negli ultimi anni della sua vita, e lì c'è un testo particolarmente importante, composto proprio nel 1988, comunque pubblicato nel 1988 presso un altro editore, la Delfi, che è Il Cavaliere e la Morte. È un testo importante perché è un testo bellissimo, uno dei più bei romanzi di Sciascia. Ma Il Cavaliere e la Morte è anche il testo scritto da un uomo che sta lavorando alla pubblicazione dell'opera Omnia. Uomo che, come il suo protagonista, è stato colpito da un cancro. Ed è quindi un uomo che sta morendo, il protagonista del Cavaliere e la Morte. È un poliziotto che poi lui chiama il vice, perché non è il capo, ma di chi è il vice? Che sia il vice dell'autore, perché lui è stato un autore. Che forse sì, che sì, aveva un interesse per il delitto. Però si sente che il suo problema esiste, cioè il suo problema di autore esiste fino a un certo punto dell'identificazione con l'assassino o dell'identificazione con la vittima. L'identificazione più profonda che si sente, per cui lui è il vice, colui che sostituisce il poliziotto che vuol sapere, in fin dei conti, cos'è il delitto, cos'è socialmente, esistenzialmente il delitto. Effettivamente in quel romanzo a un certo momento c'è un personaggio che dice appunto al vice: ma lei perché ha voluto diventare così un funzionario di polizia? E c'è questo scambio bellissimo tra il personaggio e il poliziotto dice: ma sa, il delitto fa parte, appartiene all'uomo, il delitto appartiene all'uomo. E l'interlocutrice, perché è una donna, gli risponde: ma c'è qualcuno che appartiene al delitto. E questo è, in fin dei conti, il tipo di domanda che è la domanda profonda di tutta l'opera di Chasch. Intorno a questo tipo di problema, perché al centro di quell'opera io ci vedrei un'interrogazione sulla morte, ma non un'interrogazione, diciamo, di tipo metafisico. Sappiamo che dobbiamo morire tutti. E perché dobbiamo morire tutti? Perché abbiamo visto morire degli amici, dei parenti, magari dei figli, eccetera. Perché? Questa è una domanda di tipo metafisico. Ma non sono sicuro che sia la domanda shashana. La domanda shashana è ancora più che una riflessione sulla morte, quella cosa che ci è autorizzato dalla morte, e cioè l'assassino. Posso ammazzare l'altro e l'altro mi può ammazzare. E la forza di un libro, come Il Cavaliere e la Morte, sono i due aspetti del morire. Le due morti possibili. Un romanzo che è costruito su due morti possibili. Si sa, l'uomo è mortale, i filosofi, quando andavamo a scuola, al liceo, ci sono anche gli dei immortali, ma noi siamo mortali. Ma la morte non è solo un dato naturale, legato a condizioni di vita, l'ambiente, la morte naturale, se vogliamo. c'è anche proprio l'assassinio. Il fatto che un altro uomo mi può uccidere e che io posso ucciderlo. E anche se non uccido nessuno. E Sciascia insisteva sul fatto che lui non aveva mai ucciso nessuno. Però io sono anche uno che può immaginare. L'immaginazione, la fantasia esiste per me. E quando dico per me, voglio dire per tutti noi. Quindi quella dimensione dell'ammazzare e ogni giorno vediamo in televisione. Televisione, ma talvolta nella realtà, che effettivamente la gente si ammazza. E effettivamente negli romanzi di Sciascia non c'è un romanzo della guerra, però ricorrente si vede il momento della guerra. Anzi, forse si potrebbe spiegare che il testo, da quel lato lì decisivo di Sciascia, è il quarto racconto degli zii di Sicilia, l'Antimonio, che è un magnifico testo sulla guerra di Spagna, e dove si vede effettivamente cos'è una società che vive nella dimensione dell'assassinio. Nel romanzo del Cavaliere e la Morte, quel vice sembra destinato a morire di cancro. Fuma del resto. E invece quel personaggio, che è un poliziotto, come altri poliziotti, Sciasciani finisce ucciso, assassinato. E così vediamo benissimo il dualismo, che potrei chiamare il dualismo delle due morti, della morte naturale, sì, uno muore di malattia, anche se il cancro pone dei problemi, però è una malattia naturale. E poi chi muore assassinato. Ecco, e lì abbiamo un personaggio che non può morire di morte naturale, ma muore assassinato. È un libro che Sciascia scrive mentre lui sta morendo di cancro. È un libro che lui sta scrivendo mentre sta lavorando alla pubblicazione delle sue opere. C'è un rapporto stretto in lui tra la scrittura e la morte. E il libro che ho evocato adesso ci fa vedere come si passa da un'esperienza soggettiva della morte, cioè il soggetto, l'individuo, da un'esperienza soggettiva della morte alla morte, come scrittura. E sembra che tra, chiamiamolo così, il vissuto della morte e la scrittura, sembra che non ci sia nessun diaframma, nessun diaframma. Torniamo a quell'edizione. Quando si fa l'edizione di un testo o anche la traduzione di un testo, c'è qualcosa che potremmo chiamare il paratesto dell'edizione. Non è il testo in sé, ma è quello che si mette intorno al testo. Un po', non so, compriamo la bistecca e c'è un po' di carta intorno alla bistecca. Il paratesto dell'edizione. Di un'edizione, quella lì, che è una ricapitolazione dell'opera. E lì tra i paratesti c'è un'intervista del curatore che ho fatto io, gli ho posto delle domande. Il titolo, l'editore ha dato come titolo 14 domande a Leonardo Sciascia. La prima domanda è questa. Dice, ex abrupto, e uso questa espressione ex abrupto che avevo imparato da lui perché quando uno veniva sottoposto a tortura, il torchio, ex abrupto era un'espressione usata lì, ex abrupto, dirò che tra i vari approcci possibili ai tuoi libri, la Sicilia, la cronaca, la politica, il più convincente, la tua volontà di fare della morte un'esperienza narrabile. Fare della morte un'esperienza narrabile. E vi leggerò l'ultimo paragrafo della risposta che mi ha fatto Sciascia. Sciascia dice: rispondo che sì, vorrei raccontare il morire, la morte come esperienza. Il che ha tentato impareggiabilmente Tolstoi. Mi limito dunque ad avere nei riguardi della morte, della mia morte, nell'ultima suprema curiosità intellettuale, un'ultima suprema curiosità intellettuale. Il che rende questo dominante pensiero della morte. Nonché un pensiero, diceva Savinio, la morte è il pensiero stesso, meno grave, meno ossessivo, come per ogni attesa cui un sentimento di curiosità si accompagna. Potrei aggiungere che su 14 domande, che erano delle domande che avevo preparato per una discussione, che poi dopo sono state, abbiamo stampate tali quali con le risposte. Potrei anche dirvi che almeno a due domande non ha risposto. Una era una di quelle domande che si fanno così, un po' così per riuscire a far funzionare la conversazione o lo scambio con le persone, quindi ha lasciato perdere. Però c'era un'altra domanda a cui non mi ha risposto, mi ha restituito la scheda tale quale. Dicevo, ma forse la tua grande angoscia è questa, che l'assassinio diventi un comportamento normale, che non ci sia più la repressione dell'assassinio. E lui aveva lasciato perdere una risposta eventuale a questa domanda. Ovviamente il paratesto non sono soltanto le domande all'autore, che sono anche state sfruttate dai miei colleghi critici, ma per ogni volume ho scritto anche un saggio, un saggetto su un tema, su una problematica che non riguardava soltanto i libri pubblicati nel volume, ma che era un tentativo per ogni volta proporre una presentazione globale dell'opera. primo saggio era intitolato Verità e scrittura e poneva questo problema, la relazione tra la verità e la scrittura. Il secondo, Polemos, perché più polemico di Sciascia in quegli anni era difficile trovarlo. E poi per il terzo volume il saggio era intitolato Inquisire, non inquisire, perché è stata in un certo senso una delle grandi, uno dei grandi interrogativi. Cioè, inquisire sì, perché è la base del romanzo giallo di cui parleremo fra poco, ma non inquisire, d'altra parte, è anche un'esigenza mafiosa. Inquisire, non inquisire. E, come si diceva una volta, inquisire e non inquisire è un po' un letto di Procusto, ecco, da una parte e dall'altra si sta sempre male. Ecco, poi c'era anche un saggio sulla fortuna critica. Comunque, un uomo che cura la ristampa dei suoi libri, che vede la cosa in una prospettiva unitaria. È un uomo che ricompone la sua vita, e nel caso di Sciascia, sicuramente nella sua positività. È diventato uno scrittore. E badando ai suoi libri passati, dicendo sì, tutti è però questo no. Voleva fissare qualcosa che non era soltanto come poteva essere per me, almeno all'inizio del lavoro, un pensiero di tipo filologico, o come sarebbe adesso se dovessi io lavorare a un'edizione delle opere di Sciascia. Per lui sicuramente era fissare qualcosa. Un qualcosa che era se stesso. Cerchiamo di immaginare qui a Sonvico un uomo della stessa generazione di Sciascia che comincia, un po' come Sciascia, ha scritto la storia di Regalpetra, che in realtà era Calmuto, ma uno che ci scrive una storia se uno avesse scritto una storia di Santa Vica, diciamo così. Ecco, adesso lo leggeremmo e cosa rappresenterebbe per noi e cosa avrebbe rappresentato allora per quell'uomo. E quindi, quando Sciascia muore, io non so se devo parlare di presa di coscienza, perché non è una presa di coscienza, è una cosa che rimane così sull'orizzonte della mia vita. È un uomo che vive il suo rapporto con la morte. Ed è un uomo che ha vissuto quel rapporto sicuramente in modo intenso e che l'ha vissuto in modo intenso nella scrittura. E quella morte che posso dare all'altro e che l'altro può dare a me è una cosa che fa parte della condizione umana, come il fatto di avere due mani, delle gambe. Ecco, quella cosa che chiamerei la condizione mortifera. Ed è uno scrittore che per tutta la vita ha scritto intorno alla condizione mortifera. Per esempio, i quattro romanzi, che spesso vengono chiamati romanzi gialli, ma è sbagliato, che lui scrive tra il 61 e il 74. Tre romanzi, nei tre romanzi cosa vediamo? Nel giorno della civetta vediamo la mafia, nel romanzo che viene dopo, nel 66, vediamo una famiglia criminale, dominante in un paese. Poi dopo c'è il contesto che lui chiama una parodia ed è tutto un paese. E poi Todomodo nel 74, dove fa vedere la classe dirigente, la gente che ha in mano il paese. E simbolicamente si ammazzano tra di loro. Cioè, ogni volta, ogni libro, prima ancora di essere un libro, diciamo, di tipo politico, e si capisce che un recensore sul momento pensi alla politica, ogni volta è un libro che ha a che vedere con l'assassinio. Perché è il vero problema. Ed è il vero problema che spiega due cose. Prima di tutto il romanzo giallo. Il fatto che c'è una tecnica che assomiglia a quella del romanzo giallo, ma non solo dei romanzi gialli. Perché come romanzi gialli falliscono. È la storia di fallimenti del romanzo giallo. Nel romanzo giallo classico c'è un tipo geniale che scopre l'assassino e poi ci sono i poliziotti che ah, ti abbiamo preso, ti mettiamo in carcere, c'è il processo, eccetera. Invece tante sfumature, tante forme, eccetera, rispetto al giallo classico. Questo non avviene nei romanzi di Sciascia. Non avviene, ciò è tanto vero che in un romanzo, nel romanzo del 74, in Todomodo, non si riesce a sapere praticamente cosa sia veramente successo. Questo significa anche una seconda cosa. E cioè l'importanza della polis, di quello che a scuola si chiamava la civitas, l'organizzazione sociale e quindi la politica, perché la politica, in senso vero, deve preoccuparsi della polis, della civitas, dell'organizzazione sociale, delle sue strutture. E invece, se il romanzo poliziesco non funziona, vuol dire che la polis non funziona. E la polis non è soltanto una cosa casuale, è proprio qualcosa di fondamentale, perché ognuno di noi, ogni uomo, gli uomini hanno bisogno di una struttura che è la polis e che ha come funzione di garantirli, di garantire a ognuno di noi che ci viene riconosciuto il diritto alla vita, che abbiamo il diritto di vivere, che in realtà nessuno ci può o ci deve ammazzare e che noi non dobbiamo ammazzare nessuno. E i romanzi di Schach fanno vedere sistematicamente, almeno quei quattro romanzi, a cui bisognerebbe anche aggiungere gli ultimi due, Il Cavaliere e la Morte, di cui ho già parlato, e anche Una Storia Semplice, di cui non parlerò perché il tempo va avanti, ma sono tutti dei romanzi che dimostrano che quella garanzia di poter vivere non esiste nella polis, che quindi la polis non svolge la sua funzione di garantire all'individuo il suo, chiamiamolo, diritto, perché ci vuole il diritto, perché uno abbia il diritto di vivere. Ho detto col 74 i vertici dello Stato, coloro che hanno la responsabilità dello Stato e si ammazzano. Nel 1975, cioè dopo la fine di quel ciclo di quattro romanzi che io vorrei che retrospettivamente leggo insieme, Sciascia pubblica La scomparsa di Majorana. E con La scomparsa di Majorana ha inizio un discorso diverso, che è un discorso relativo alla bomba atomica, al fatto che un grande scienziato come il Majorana di Sciascia, e anche come Sciascia lo immagina, ecco, rifiuta un certo destino della fisica. Rifiuta il destino della fisica come sistema, sicuramente il migliore, per ammazzare la gente. La scomparsa di Majorana è, in questo senso, e la cosa è chiara nel testo, un testo che non è più soltanto una prospettiva di tipo politico, ma che propone anche una prospettiva di tipo religioso. Un certo tipo di religioso, di religione, che è un rifiuto del mondo. Cioè, tanto vero che nel finale si vede che, secondo Sciascia, può anche darsi che Majorana sia finito in convento. Ma finisce in convento perché rifiuta il funzionamento del mondo. Comunque, intorno a questo si vede comparire sicuramente una problematica di tipo religioso. Due anni dopo pubblicherà Candido. E Candido è una specie di divertimento. In Candido il grande letterato può divertirsi, prendere in giro i politici, una certa idea della politica. Sì, ci sono due morti, ma sono delle morti non affascinanti politicamente. Sono altre cose, un po' di psicanalisi, così, un po' da quattro soldi, un po' storie. Storie siciliane, un prete che ha sedotto una ragazza, il padre della ragazza che ammazza il prete, sono cose così, ecco, tragiche se vogliamo, in un certo senso. Però non è più quella prospettiva. Si ha come l'impressione che Sciascia lì si diverte genialmente, sfrutta benissimo Voltaire, il Candide di Voltaire, e poi ci divertiamo. Se non che nel 1978, come sapete, viene ammazzato Aldo Moro. C'è l'assassinio di Aldo Moro. Ed è sicuramente, abbiamo delle testimonianze di questo, per Sciascia un momento decisivo, perché la realtà italiana nella quale lui vive viene a coincidere con la sua opera, e cioè l'assassinio. E in fin dei conti il fatto che una vera soluzione di quell'assassinio non c'è. Oggi chi osa dire, sicuramente, a parte il fatto va bene, è stato ammazzato dalle Brigate Rosse, poi cosa sono le Brigate Rosse, poi dietro le Brigate Rosse chi c'era, e poi come mai che per 55 giorni nessuno è riuscito a ritrovarlo, poi tante storie di quel tipo. È veramente come nei romanzi di Sciascia, ma in una dimensione tragica. Nei romanzi di Sciascia uno viene ammazzato e in fin dei conti, ma no, non c'è una soluzione veramente convincente al romanzo giallo. Nella storia di Moro, nella realtà, avviene una cosa un po' dello stesso tipo. E Sciascia tende a teorizzare il fatto che la società italiana più o meno è sempre stata una società di questo tipo. Infatti, nello stesso periodo pubblica I Pugnalatori, che raccontano una storia palermitana che non trova soluzione all'indomani dell'unità. Dunque, bisognerebbe riuscire a concludere, penso. Dunque, c'è una specie di tentazione terribile da parte di chi legge uno scrittore, specialmente se fa il critico. La tentazione è questa, di leggere i romanzi, i testi, i saggi, eccetera, avere l'impressione che i personaggi, ma li conosciamo, come conosciamo il vicino di casa, il cugino, il cognato, eccetera. E quindi da lì questa idea, e perché lo scrittore lo conosciamo bene, visto che conosciamo i suoi personaggi, ma lui e i suoi personaggi, i suoi personaggi, sì, benissimo. Invece la cosa non è così semplice, e credo che Sciascia sapesse questo fatto. Registrazione a cura di Scatola Nera, il contenitore multimediale. Maggiori informazioni su scatolanera.noblogs.org.